Linee d'ombra di Matteo Caccia. Benvenuti alla puntata speciale di Linee d'ombra, quella che va in onda il sabato sera alle 21.30, in cui raccontiamo un pezzo di tutte le storie che vi raccontiamo durante il giorno. Linee d'ombra in onda dal lunedì al venerdì alle 15, racconta le storie degli ascoltatori, le storie che raccogliamo in giro per il mondo, non andando, ahimè, a cercarle in giro per il mondo, ma cercandole dove si riesce: web, libri, documentari, tutte storie vere. E sia queste storie, sia quelle degli ascoltatori, che hanno a che fare con una linea d'ombra, cioè con una linea di confine che è stato varcato. Ecco, la storia che raccontiamo si innestano proprio lì, tra un prima e un dopo, esattamente su quella linea. E poi raccontiamo in finale di ogni puntata, ed è questo speciale quello che serve per riassumerle tutte, in finale di puntata raccontiamo una storia seriale, cioè una storia che viene suddivisa per puntate. E le storie durano dalle 3 alle 4 alle 5 settimane. Questa è la seconda settimana di una storia che è dedicata a una giornalista, si chiama Silvia Bencivelli, che esce con un articolo su un quotidiano nel 2013 in cui semplicemente smonta le teorie complottiste delle scie chimiche. E quello che succede è che la sua vita viene ribaltata, perché tutti i suoi account, tutte le sue mail vengono riempite, che viene definita dagli americani uno shitstorm, cioè vengono riempite di insulti terribili contro di lei. Anche sul perché di tante, davvero tante mail aggressive che sono volate sulla testa di chi ha raccontato la bufala delle scie chimiche si può trovare una risposta scientifica. In parte ce l'ha data Karl Popper negli anni 70. Gli uomini tendono a cercare una risposta esterna ai fenomeni del mondo. E se un tempo per le cose negative c'erano gli dei capricciosi e potenti dell'Olimpo, oggi ci sono sinistri gruppi di potere fatti da personaggi misteriosi che non possono smettere di tormentarci solo perché nessuno li ha mai visti. Non è un argomento sufficiente. Non solo. Immaginarsi un grande complotto ci deresponsabilizza e ci offre una spiegazione facile per fatti, talvolta anche dolorosi, a cui è difficile trovare un senso. La malattia di una persona cara, per esempio, può essere consolatorio attribuirlo alla cattiveria delle multinazionali del farmaco che terrebbero per sé rimedi davvero efficaci. Si tratta di un pensiero molto umano, ma quantomeno cedevole di fronte a certe spiegazioni scientifiche che oggi siamo in grado di dare a molte delle cose intorno a noi. Ma le teorie del complotto non sono sempre innocue. L'idea che l'HIV non esista o che sia un complotto dei bianchi contro i neri, idea diffusa in certi paesi africani ad esempio, ha portato tanti a rinunciare alla prevenzione. La voce che i vaccini sono portatori di malattie terribili e non il contrario ha portato troppi genitori a rinunciare a somministrarli ai propri figli. Infine, chi propugna le teorie del complotto tende a pensarsi più furbo del popolo bue e infatti lo apostrofa con vigore e forse anche scarso rispetto. Sveglia, dice. Tende a non ammettere i propri errori, a non accettare il dialogo con la scienza, che lei sì si nutre di dubbi. È esso stesso influenzabile, come tutti noi, ma più cinico. Cita solo le fonti che confermano la sua idea non curante delle eventuali contraddizioni. Pone sempre le stesse domande, avanza sempre gli stessi sberleffi. E a volte decide di scrivere una mail, dimenticandosi che dall'altra parte della posta elettronica c'è un altro essere umano, incidentalmente di sesso femminile, senza squame verdi e senza branchie oppure antenne, che sta soltanto cercando, come tanti, di fare il proprio mestiere. Quello che era successo era che erano saltati fuori quelli che mi difendevano, che però non erano meno molesti. Cioè, qualcuno di loro era adorabile, con qualcuno ho fatto anche amicizia, però nella massa erano altre 200 persone che mi scrivevano per dire: mi vergogno di essere maschio, la difendo io, perché questa gente si permette di fare queste cose? E comunque erano 200 email nella mia casella di posta elettronica, e, insomma, email scritte da estranei a me, che cercavo di fare la mia vita e che invece a quel punto ero sommersa da sollecitazioni veramente su una questione molto poco rilevante nella mia vita. E succede che questa persona che aveva scatenato lo shitstorm si diverte in un qualche modo a modularlo, no? Tipo dice: adesso tutti così, adesso tutti così, una specie di gioca jouet, capito? Sui social, tutti contro di me in varie maniere, no? Guardate cosa ho fatto, guardate, quindi giù i fotomontaggi, oppure giù a prendersela con qualcosa che avevo fatto nel mio passato e così via. E a un certo punto cominciano a caricare dei video su YouTube in cui compare la mia faccia, in cui si raccontano cose di me, eccetera. Video noiosissimi, fatti veramente male, e in cui però a un certo punto finalmente arriva il reato. Lui in persona, mettendoci la faccia, dice così: io non capisco come possa la Bencivelli permettersi di dire ste cose. È una ragazza, anche una bella ragazza, e se qualcuno se la va a prendere sotto casa, fa bene.

poi non sono nemmeno un personaggio così interessante, però veniva utilizzato di tutto. E ti ricordo, cioè mi ricordo, mi ha fatto ancora molta impressione anche questo, che a un certo punto ha ricominciato a girare una mia foto con un gattino. Era una foto di tanti anni prima. Avevo trovato un gattino e mi ero fotografata con in braccio questo gatto, perché qualcuno se lo prendesse. E niente, sta foto li ha scatenati di nuovo. Mi ha fatto veramente impressione. Il gattino scatena una ferocia terribile e ingiustificata. La foto col gatto è stata usata anche per Giulio Regeni, da chi gli ha voluto bene, perché il gattino sottolinea una cosa delicata, da proteggere. Ma nel mio caso veniva messa in giro la mia foto col gatto per ridicolizzare la mia debolezza. In attesa del processo, il tempo passava, io lavoravo, e la vicenda, invece che sgonfiarsi, sul web assumeva delle dimensioni inimmaginabili. E ho fatto un programma televisivo su Rai 3 che, niente, insomma, che andava in onda ogni giorno e nel quale io facevo la giovane medico, quindi ogni tanto ho dei vestiti o delle gonne, niente di sconcio, era la mattina di Rai 3 e facevo il medico, cioè stiamo parlando di roba da scuola media. E proprio per farla del tutto da scuola media, a un certo punto in un video fatto sulla diretta Facebook alla fine di questo programma, a un certo punto mi si vedeva un triangolino di mutanda, una roba che chiamarla la Sharon Stone veramente mi ha fatto un regalo molto molto importante. Però il concetto era quello, cioè ci sono io che mi sposto sulla sedia un po' impacciata con una gonnellina un po' corta e si vede questo triangolino di mutanda bianca. Questo video con questo triangolino di mutande che girava per via di qualche perverso delle giornaliste televisive è di nuovo ripartito anche nel giro delle scie chimiche alla velocità della luce. Veniva preso, ripostato, ricaricato, condiviso, aggiunto ai commenti sulle scie chimiche e nel giro di pochissimo ha avuto più di 1 milione di visualizzazioni. Tutti i commenti erano e sono tuttora denigratori, tutti concentrati sul fatto che sono piccola di fisico, che non sono una gigante, che vengo dalla medicina, quindi guardate questa che ci vuole spiegare a tutti e anche un po' a sottolineare che sono carina, ma senza esagerare. Di nuovo, come un film, la persecuzione è ripartita nell'intreccio vizioso tra chi si diverte male sulle spalle degli altri e chi, pur essendo in attesa di essere giudicato da un tribunale, ritiene di essere impunito e quindi continua per la sua strada con gli stessi strumenti. Io ho continuato a vivere, a lavorare, ma su Google il mio nome, ancora oggi, se faccio una ricerca, è affiancato dai suggerimenti scie, persecuzione, poi marito, fidanzato, compagno, figli, gambe, piedi. Qualche feticista del piede riproponeva continuamente il mio nome in un meccanismo che non conosco ma che aggiunge visibilità alle proprie condivisioni. Così, quando ho cominciato a pensare, vabbè, la questione delle scie chimiche l'ho più o meno potuta archiviare, mi si è ripresentata sotto altre forme da molte altre parti. E di tutto questo ci sono tracce sul web praticamente impossibili da cancellare. Il processo doveva essere per diffamazione. Alla fine del processo il giudice... ed è un processo penale, eh? Io ho soltanto pagato, non avrò mai una lira da questa cosa, questo va sottolineato. Noi l'abbiamo fatto, come ha detto giustamente la mia avvocata, per amor di giustizia e perché noi potevamo farlo, perché un sacco di altra gente subisce e non ha modo di reagire come invece noi eravamo in grado di fare. Anche l'esperienza del processo non è stata per niente bella. Io non ero mai stata prima in un'aula di tribunale e non mi sono per niente sentita a mio agio in quell'ambiente. Il giudice conosceva l'imputato. Questa persona è famosa in certi ambienti per essere un persecutore seriale. Nella sua città ha perseguitato medici, i giudici del tribunale. È molto ben conosciuto. È uno che ti prende di mira e ti rompe le palle all'infinito in molti modi. Quando è caduto il ponte Morandi, ha innescato tutte delle teorie complottiste con tutti gli attentati europei di questi ultimi anni. E ora con il Covid lo stesso se la prende sempre con persone o geograficamente o per disciplina legate a quelle questioni. Coi genovesi, ora coi virologi, trovando le persone più attaccabili. Io quando sono andata a processo ho scoperto che aveva ragione la mia avvocata. Questa persona ha potuto godere di una grande impunità perché sono reati difficili da perseguire. Per portare a processo qualcuno che ti rompe le scatole sui social network, devi dimostrare che è proprio lui, perché a quanto ho capito io, sui social network l'identità non è verificata. Non è così facile da verificare che sia quella effettivamente dichiarata, no? Quindi tu, cioè, denunciare qualcuno sulla base di un reato che è avvenuto su Twitter, no? Perché magari ti ha diffamato su Twitter, vuol dire richiedere a Twitter di confermare che davvero quella persona sei tu, quel profilo Twitter ti appartiene e ad aver scritto quelle cose sei stato davvero tu. Ma per andare a verificare, siccome i social appartengono a società americane, ci vogliono delle rogatorie internazionali, che in genere sono molto costose e molto lunghe da portare avanti, e non si possono fare per ogni questione. Nella maggior parte dei casi i tribunali tendono ad archiviare i casi. Spesso i casi sono fuochi di paglia ed è giusto non procedere con le rogatorie, ma altrettanto spesso permettono una garanzia di impunità a personaggi come quello in cui mi sono imbattuta io. Nel mio caso però non c'è stato bisogno della rogatoria perché l'identità del reo era molto chiaramente riconoscibile con il suo sito, la sua faccia, la sua voce e lui stesso che diceva sono io. Poi alla fine del processo il giudice ha visto la presenza di altri due reati di cui uno è stalking, l'altro non ricordo, per cui lui dovrebbe avere altri processi per la mia vicenda. In questi altri processi io non sono tenuta ad andare perché non sono chiamata a testimoniare, perché la mia prima testimonianza varrà anche per i prossimi, quindi dovrebbero esserci questi due processi, io dovrei saperlo senza dover andare un'altra volta lì in tribunale. Grazie ancora Silvia per averci raccontato, per continuare a raccontarci questa storia. Vi ricordo che se avete voglia di sentirla potete scaricarla in podcast dal nostro sito Linee d'Ombra oppure ovunque scarichiate i vostri podcast, ma vi ricordo anche che lunedì noi ricominciamo a raccontare ovviamente e soprattutto cominciamo la terza settimana di questa storia seriale che quindi è anche l'ultima. Passate una buona domenica, ci sentiamo lunedì alle 15 per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!